greater than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli sembra regnare una calma sospetta, K e Drago pensano alla enchilada de pollo. To tell you this frankly, if you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. L'encilada de pollo, Drago, dov'è l'encilada de pollo? Qui niente encilada de pollo. Peccato. Ma davvero ti piace l'encilada de pollo? Beh sì, abbastanza, perché? Ah, niente. L'encilada de pollo. Sì, l'encilada de pollo. Che problemi hai, Drago? No, nessun problema, ci mancherebbe. Se a te piace l'encilada de pollo, sono fatti tuoi, credo, no? Ma come credi? Certo che sono fatti miei. L'encilada de pollo è buonissima. Beh, dipende. Ma come dipende? Dipende. Da che dipende? Come jarabe de pollo? Sì, jarabe de pollo e giovanotti però. No, ma questa è l'encilada de pollo, Drago. L'encilada de pollo. E poi dipende, sempre dipende. Certo, tutto dipende. Che discorsi sono? Ma sull'encilada de pollo ci sono dei supplementi di dipende. Ma perché? Perché l'encilada de pollo, ad esempio, come te la cucinano a Ciudad de Juarez, no? Mm. Non è detto che piaccia al palato occidentale, perché è troppo piccante. Mentre quella di Albuquerque, in New Mexico, è più addomesticata e dunque magari... Sì, e poi dipende anche dal petto di pollo, perché... Beh, insomma, dai. Un petto di pollo è un petto di pollo, eh. Sai quanti petti di pollo ci sono nel mondo, tutti più o meno uguali uno all'altro? Un petto di pollo non è sempre solo un petto di pollo, Drago. Ci sono petti e petti. E ci sono polli e polli. I nostri polli possono andare a cresta alta. Vabbè, il gusto però è standard, eh. Spugna usata con sentori di uovo sodo e spogliatoio maschile. Hai fatto un corso da assaggiatore? Encilada de pollo, peperoni, pomodori, cipollina, aglio, maggiorana, tabasco, paprika dolce, olio, brodo, petto di pollo e tortillas. E un inconfondibile gusto di spugna usata con sentori di uovo sodo e spogliatoio maschile. I want you. Baby, you have bird flu. I want you. Don't you have a bird flu? Se incontro per la strada una bella donzella, la guardo e le propongo di andare in camporella. Lei mi fulmina con gli occhi e mi dice non è aria. Guai te se mi tocchi che magari c'hai la viaria. I want you. Baby you have bird flu. A noi giovani polli, amanti dell'effimero, non è più permesso un po' di sesso libero. I want you. Allora Tarek, continuiamo le lezioni di musica, eh? Eravamo arrivati ai Genesis, eh? Ti ricordi? Sì. Ah, bene. Allora, i Genesis negli anni 70 hanno fatto uscire dei dischi, no? Tipo Foxtrot, Trespass, Sailing England by the Pound. Sai che vuol dire Sailing England by the Pound? No, no, adesso te lo dico. Vuol dire vendere l'Inghilterra un tanto al chilo, eh? Che poi sarebbe un tanto la libra. Ma tu sai cosa sono le libre? No. Allora è inutile, no? Vabbè, comunque, i Genesis erano una miscela di musica pop e rock con quella sinfonica, eh? Avevano un tastierista che suonava con una mano sola, però suonava bene, eh? E si chiamava Tony Banks. È scritto? Sì, sì. Bravo. Che poi, insieme ai Genesis, poi sono usciti tanti altri gruppi simili a loro, eh? Come gli Yes di Rick Wakeman, gli Emerson Lake e Palmer, e quelli arrivavano dai Nice, eh? Hai capito? Emerson Lake e Palmer che derivavano dai... Nice. Bravo, Tarek. E poi, in quel periodo lì, che ero, insomma, inizio metà anni 70, era pazzesco, perché ogni mese usciva un disco che poi rimaneva nella storia eterna del rock. Gentle Giant, Van der Graaf Generator, Jethro Tull, Deep Purple, Li Hu, ecco, Li Hu. Per parlare dei Hu, io ho bisogno di almeno mezz'ora. Ce l'hai mezz'ora, Tarek? No. Come no? No. Ma tu non hai mezz'ora per ascoltare la lezione su Li Hu. Ma tu sei proprio disciplinato, eh? Sai cosa faccio adesso? Io adesso ti do una roccolata, eh? Roncami! Ecco, così impari, eh? Capito? Sì. Ah, Allora, The Who, Pete Townshend, Keith Moon, John Entwistle e Roger Daltrey. I due sono morti adesso, eh? E sono passati 41 anni dal loro primo album e il tempo fa il suo lavoro, eh? Comunque, due sono morti, ma gli altri due, che sono poi due più importanti, il chitarrista e il cantante, quelli continuano a fare tournée, tournée mondiali, e adesso faranno anche un disco, però il chitarrista è un po' sordo, suona orecchio senza le orecchie, Vuoi sentire un pezzo di Who? Sì. Allora, adesso la canto come se fossi sordo anch'io, Questa è Baba O'Reilly degli Who, dall'album Who's Next del 71, va bene? Sì, sì. Hai sentito? Sì, sì, sì, sì. No, sì, sì, hai capito, hai paura, eh? Eh sì, fai bene, La fabbrica dei polli. Qui siamo in una fabbrica di polli e i polli sono diventati molto famosi ai tempi della mucca pazza. Io mi ricordo che andavo al ristorante cinese e non ordinavo più il manzo alla piastra, il manzo in agrodolce, il manzo teriyaki, ma ordinavo il pollo fritto, il pollo all'ananas, il pollo al limone, il pollo alle mandorle, il pollo ai peperoni e il pollo al curry. Curry, pollo, curry, pollo al curry, curry. E quindi ci sono stati 2 o 3 anni durante i quali i suicidi di allevatori di bovini e di loro familiari erano abbastanza frequenti. Basta, non ce la faccio più! Basta, basta! In quegli stessi anni invece gli allevatori di polli vedevano triplicata, quadruplicata la richiesta e si arricchivano e correvano verso il profitto senza chiedersi quali sarebbero state le conseguenze. Curry, allevatore al curry! Allevatore al curry. Gli allevatori di polli senza scrupoli, non nel senso che allevavano polli senza scrupoli, ma che erano allevatori senza scrupoli con il core business nei polli, questi sì. Allevatori hanno subito la fascinazione della speculazione, anzi, la fascinazione della speculazione, e a fronte di una richiesta quadruplicata hanno voluto dimezzare i costi. E quindi? E quindi, com'è che hai detto? La fascinazione della speculazione. Ma non sarai mica... Super scrittore! Dannazione! Ho vinto il Pulitzer! Super scrittore! E quindi hanno risparmiato sul mangime. E hanno avviato tecniche di allevamento assurde. E adesso c'è l'aviaria. Che poi in allevamenti organizzati così si diffonde in modo fulmineo. E quindi niente più pollo al curry. No, niente più. Pollo al curry! Curry, pollo! Pollo al curry! Pelli, corro! Pelli, pelli! Curry, curry, belly, belly al corra, corri, belly, ma come? Che cosa succederà adesso? Il pollo che corre diventerà un pollo al curry? O il pollo al curry ridiventerà un pollo che corre? Lo saprete solo sintonizzandovi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo speziato allestimento de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce, non chiude. Tarek, corri! Corri, Tarek! Corri, pollo al curry! Tarek, corri! Pollo, Tarek, polli! Il partito lì, vedatemi! Barrumel.